Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Il duello, nel quale Porthos aveva recitato una parte così brillante, non gli aveva fatto dimenticare il pranzo a cui l'aveva invitato la signora procuratrice. L'indomani, verso l'una, si fece dare l'ultima spazzolata da Mousqueton e si incamminò verso Rue aux Ours con il passo dell'uomo a cui arride una duplice fortuna. Il cuore gli batteva, ma non come quello di D'Artagnan, di giovanile e impaziente amore. No, un interesse più materiale gli sferzava il sangue. Stava finalmente per vedere nella realtà il forziere di cui 20 volte aveva veduto l'immagine in sogno. Forziere di cui così sovente aveva sentito parlare e che le mani un po' secche, è vero, ma non prive di eleganza della procuratrice, stavano per spalancare ai suoi sguardi ammirati. E poi lui, il vagabondo, l'uomo senza mezzi, l'uomo senza famiglia, il soldato avvezzo alle locande, alle osterie, alle taverne, alle bettole, il ghiottone obbligato per lo più a contentarsi di occasionali scorpacciate, stava per assaggiare i pasti casalinghi, assaporare gli agi domestici e abbandonarsi a quelle piccole premure che più si è rudi e più piacciono, come dicono i vecchi soldati. Non che al moschettiere non venissero in mente ogni tanto le chiacchiere maligne che correvano allora sui procuratori e che sono sopravvissute ad essi, la lesina, la spilorceria, i giorni di digiuno, ma siccome, dopo tutto, tolti alcuni eccessi di economia che Porthos aveva sempre giudicati intempestivi, aveva veduto la procuratrice piuttosto generosa, ben inteso per una procuratrice, sperò di trovarsi in una casa messa su in modo accogliente. Tuttavia, giunto alla porta, il moschettiere ebbe qualche dubbio, poiché l'entrata non era fatta per allettare i visitatori. Andito, buio e puzzolente, scala male illuminata da inferriate attraverso le quali filtrava la luce proveniente da un cortile vicino. Porthos bussò con il dito. Uno scrivano allampanato, pallido e sepolto sotto una selva di capelli lunghi, divisi da una riga, venne ad aprire e salutò con l'aria di chi è costretto a rispettare in un altro, tutto in una volta, l'alta statura, indice di vigore, la divisa militare, indice di condizione, e il colorito acceso, indice di vita vissuta nell'abbondanza. Un altro scrivano più piccolo dietro il primo, un altro più alto dietro il secondo e un galoppino di 12 anni dietro al terzo. In tutto 3 scrivani e mezzo, cosa che per quei tempi denotava uno studio dei più avviati. Benché il moschettiere dovesse venire soltanto all'una, fin da mezzogiorno la procuratrice stava allerta e sperava in un arrivo anticipato, contando sul cuore e forse anche sullo stomaco del suo adoratore. Madame Coquenard giunse pertanto alla porta dell'appartamento quasi nello stesso momento in cui il suo invitato arrivava dalla porta della scala e la comparsa della degna signora lo trasse da un grave imbarazzo. I praticanti osservavano incuriositi e lui, non sapendo che dire a quella gamma ascendente e discendente, se ne stava lì con la lingua inchiodata. «È mio cugino!» esclamò la procuratrice. «Entrate, entrate, Monsieur Porthos!» I due entrarono nella stanza del procuratore dopo aver attraversato l'anticamera dove erano gli scrivani e lo studio dove avrebbero dovuto essere. Era quest'ultima una sala scura ingombra di scartafacci. Uscendo dallo studio si lasciarono a destra la cucina ed entrarono nel salotto. Tutte quelle camere comunicanti fra loro non piacquero molto a Porthos. Dalle porte aperte le parole dovevano sentirsi di lontano. Poi, nel passare aveva gettato un'occhiata rapida e investigatrice alla cucina e confessava a se stesso, a scorno della padrona di casa e con suo grande rammarico, che non vi aveva scorto il fuoco allegro, l'animazione, il movimento che nell'ora di un buon pranzo regnano di solito in quel santuario della ghiottoneria. «Siamo cugini, a quanto pare, Monsieur Porthos», disse il procuratore sollevandosi a forza di braccia dal seggiolone. Il vecchio, affagottato in un largo farsetto nero entro il quale si perdeva il suo esile corpo, era verdognolo e rinsecchito. Gli occhietti grigi brillavano come carbonchi e sembravano, insieme alla bocca atteggiata una smorfia, l'unica parte del viso in cui fosse rimasta la vita. Disgraziatamente le gambe cominciavano a rifiutar di servire tutta quella macchina di ossa. Da che si era manifestato questo indebolimento 5 o 6 mesi prima, il degno procuratore era pressappoco diventato schiavo di sua moglie. Il cugino venne accettato con rassegnazione e non di più. Ancora in forze, Maître Coquenard avrebbe declinato qualsiasi parentela, come si è Porthos. «Sì, signore, siamo cugini», disse imperturbabile Porthos, il quale dal canto suo non aveva mai pensato di essere accolto con entusiasmo dal marito. «Per parte di donne, suppongo», aggiunse maliziosamente il procuratore. Porthos non avvertì l'ironia e la scambiò per una ingenuità di cui rise sotto i grossi baffi. Madame Coquenard, che sapeva come il procuratore ingenuo fosse una rarità nella specie, sorrise poco e arrossì molto. Maître Coquenard, fin dalla venuta di Porthos, aveva buttato gli occhi con inquietudine su un grande armadio collocato di fronte al suo scrittoio di quercia. Porthos capì che l'armadio, benché nella forma non rispondesse a quello che carezzava in sogno, doveva essere il beato forziere. E si congratulò tra sé che la realtà oltrepassasse il sogno di 6 piedi d'altezza. Non tardò a giungere l'ora del desinare. Si passò nella stanza da pranzo, vasto ambiente scuro situato di fronte alla cucina. A quanto pare gli scrivani avevano sentito nella casa effluvi inusitati. Perciò furono di una puntualità militaresca e già tenevano in mano gli sgabelli pronti a mettersi a sedere. Li si vedeva in anticipo muovere le mascelle con propositi da far paura. Maître Coquenard entrò, spinto sulla poltrona a rotelle da Madame Coquenard, alla quale Porthos a sua volta venne in aiuto per trasportare il marito fino alla tavola. Non appena entrato, egli mise in moto narici e mascelle sull'esempio dei suoi scrivani. «Oh, oh!» disse. «Una minestra invitante!» «Cosa diavolo notano di straordinario in questa minestra?» si chiese Porthos alla vista di un brodo slavato, abbondante ma del tutto privo di occhi, sul quale galleggiavano alcuni crostoni rari come le isole di un arcipelago. Madame Coquenard sorrise e a un suo cenno tutti sedettero con premura. Maître Coquenard fu servito per primo, poi Porthos. Infine Madame Coquenard si riempì il piatto e distribuì i crostoni senza brodo agli scrivani impazienti. In quel momento la porta della stanza da pranzo si aprì da sola cigolando. E Porthos, attraverso i battenti socchiusi, scorse il galoppino che, non potendo partecipare al festino, mangiava il pane condito con il duplice odore della cucina e della sala da pranzo. Dopo la minestra, la domestica portò una gallina lessa. magnificenza che fece dilatare le palpebre dei convitati a tal punto che sembrava dovessero fendersi. Si vede che amate la vostra famiglia, Madame Coquenard, osservò il procuratore con un sorriso quasi tragico. È senza dubbio un'attenzione che usate a vostro cugino. La povera gallina era magra e rivestita di quelle pelli spesse e irte che le ossa non riescono a bucare nonostante gli sforzi. Dovevano averla cercata ben bene prima di scovarla sulla gruccia dove si era ritirata per morire di decrepitudine. Diavolo, pensò Porthos, che tristezza. Rispetto la vecchiaia, ma ne faccio poco conto a lesso o arrosto. E si guardò intorno per vedere se la sua opinione fosse condivisa, ma al contrario di lui vide soltanto occhi fiammeggianti che divoravano in anticipo quella gallina sublime, oggetto del suo disprezzo. Era venuta la volta del vino. Maître Coquenard, da un'esile bottiglia di terraglia, versò il terzo di un bicchiere a ognuno dei giovanotti. Ne versò per sé in proporzioni quasi analoghe e subito la bottiglia passò dalla parte di Porthos e di Madame Coquenard. I giovanotti riempirono d'acqua il bicchiere, poi, bevuta nella metà, lo riempirono di nuovo e così di seguito. Alla fine del pranzo avevano in tal modo trangugiato una bevanda che dal colore del rubino era passata a quello del topazio bruciato. Porthos mangiò timidamente la sua ala di pollo e fremette quando sotto la tavola sentì il ginocchio della procuratrice venire a urtare il suo. Beve anche un mezzo bicchiere di quel vino così saggiamente dosato e che gli riconobbe per quell'orribile vinello di Montreuil, terrore del palato degli intenditori. Maître Coquenard lo guardò trangugiare quel vino puro e sospirò. «Volete assaggiare queste fave, cugino Porthos?» chiese Madame Coquenard con un tono che significava «Credete a me, non mangiatene». «Il diavolo mi porti se ne prendo una soltanto», bofonchiò Porthos, e poi ad alta voce «Grazie, cugina, non ho più fame». Seguì una pausa. Porthos non sapeva che contegno darsi. Il procuratore ripeté parecchie volte «Madame Coquenard, vi faccio i miei complimenti. Il vostro pranzo era un vero banchetto. Dio! Quanto ho mangiato!» Porthos credette che lo pigliassero in giro e incominciò ad arricciarsi i baffi e ad aggrottare le sopracciglia, ma il ginocchio di Madame Coquenard venne pian pianino a consigliargli la pazienza. Il silenzio e la cessazione delle portate, rimasti per Porthos inintellegibili, avevano invece per gli scrivani un significato tremendo. A un'occhiata del procuratore accompagnata da un sorriso di Madame Coquenard, essi si alzarono lentamente la tavola, piegarono i tovaglioli ancora più lentamente, poi salutarono e scomparvero. «Andate, giovanotti, andate! Il lavoro vi farà digerire!» disse con gravità il procuratore. Una volta usciti, Madame Coquenard si alzò e trasse da una credenza un pezzo di formaggio, della cotognata e un dolce preparato da lei stessa con mandorle e miele. Maître Coquenard corrugò le sopracciglia perché vedeva troppa abbondanza. Porthos si morse le labbra perché vedeva che non c'era di che pranzare. «Un vero banchetto!» esclamò Coquenard, agitandosi sulla seggiola. «Un vero banchetto! Epule epularum! Lucullo pranza in casa di Lucullo!» Porthos guardò la caraffa che aveva accanto e sperò di potersi sfamare con il vino, il pane e il formaggio, ma il vino mancava. La caraffa era vuota. I signori Cognar parvero non accorgersene. «Sta bene», disse Porthos fra sé, «sono avvertito». Leccò un cucchiaino di marmellata e si invischiò i denti nel dolce appiccicoso di Madame Cognar. «Adesso», disse a se stesso, «il sacrificio è consumato. Ah, se non avessi la speranza di mettere il naso insieme a Madame Cognar nell'armadio di suo marito». Dopo le delizie di un simile pranzo che gli chiamavano spreco, Maître Cognar sentì il bisogno della siesta. Porthos sperava che la cosa avrebbe avuto luogo seduta stante e sul luogo stesso, ma il dannato procuratore non volle sentire ragione, lo si dovette ricondurre in camera sua e strillò fino a che non si trovò davanti al suo armadio, sulla base del quale appoggiò i piedi per maggiore precauzione. La procuratrice condusse Porthos in una stanza attigua e cominciarono a porre le premesse di una riconciliazione. «Potrete venire a pranzo 3 volte la settimana», disse Madame Cognar. «Grazie», disse Porthos, «non voglio abusare, d'altronde devo occuparmi dell'equipaggiamento». «È vero», disse la procuratrice con un fil di voce, «c'è quel malaugurato equipaggiamento». «Ahimè sì», fece Porthos, «proprio quello». «Ma di che cosa si compone l'equipaggiamento dei moschettieri, monsieur Porthos?» «Oh, di molte cose. I moschettieri, come sapete, sono soldati scelti e hanno bisogno di molti oggetti che non sono necessari alle guardie o agli svizzeri. Ma, insomma, elencatemeli. Ma il tutto può arrivare a...» disse Porthos, che preferiva discutere il totale che i particolari. La procuratrice aspettava, fremente. «Ah, quanto?» disse. «Spero che non oltrepassi...» Si fermò. Le mancava la parola. «Oh no!» disse Porthos. «Il tutto non oltrepassa le 2.500 livre. Anzi, credo che facendo economia me la caverò con 2.000 livre». «Buon Dio! 2.000 livre!» esclamò Madame Cognat. «Ma è una fortuna!» Porthos fece una smorfia assai significativa e Madame Cognar la comprese. «Chiedevo l'elenco particolareggiato», aggiunse, «perché avendo molti parenti e molti clienti commercianti, ero quasi certa di ottenere le cose alla metà del prezzo al quale le paghereste voi». «Ah», disse Porthos, «se è questo che intendete dire». «Sì, caro monsieur Porthos, così. Non vi occorre prima di tutto un cavallo?» «Sì, un cavallo». «Ebbene, ho proprio quel che fa per voi». «Bene», disse Porthos raggiante. «Per quanto riguarda il cavallo sono a posto. Poi mi ci vogliono i finimenti al completo. Tutte cose che solo un moschettiere può comperare e che però ammonteranno a non più di 300 livre». «300 livre. E vada per 300 livre», disse sospirando la procuratrice. «E poi c'è il cavallo del mio domestico e la mia sacca da viaggio. Quanto alle armi è inutile che ve ne preoccupiate, le ho». «Un cavallo per il vostro domestico?» riprese esitante la procuratrice. «Ma è un lusso da gran signore, amico mio». «Signora», disse altero Porthos, «sono uno straccione per caso». «No! Soltanto vi dicevo che un bel mulo, talvolta, non fa peggior figura di un cavallo. E mi pare che procurandovi un bel mulo per Mousqueton, vada per un bel mulo. Avete ragione, ho visto dei grandi di Spagna il cui seguito viaggiava tutto su muli. Ma allora, Madame Cognar, che sia un mulo con pennacchi e sonagli. Madame Coquenard emise altri sospiri. Molière non aveva ancora scritto la scena dell'Avare. Madame Coquenard ha perciò la precedenza su Harpagon. Insomma, il resto dell'equipaggiamento continuò via via a essere discusso allo stesso modo. La conclusione fu che la procuratrice avrebbe chiesto al marito un prestito di 800 livre d'argento e fornito il cavallo e il mulo che avrebbero avuto l'onore di portare alla gloria Porthos e Mousqueton. Il moschettiere se ne tornò a casa con una fame rabbiosa. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.